Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Allora, io questa mattina, soldi e dintorni, avevo preannunciato una simpatica puntata dedicata alla quasi chiusura della stagione della dichiarazione dei redditi e quindi insomma gli ultimi appuntamenti con la consegna del 7.30, con la stesura, la compilazione del modello unico, ma poi è cambiato qualcosa sul mercato. La giornata in borsa è partita malissimo, è andata via via peggiorando e quindi abbiamo un po' scompaginato, come ci capita spesso di fare, i nostri piani appunto, e abbiamo organizzato una piccola task force per analizzare l'andamento delle borse di questa mattina. Qual è la situazione? La situazione è che Parigi sta perdendo 4 punti, Francoforte ne perde 3, Londra ne perde il 3,19%, Milano meno 4,70% in questo momento sul FTSE MIB, Piazza Affari qualche minuto fa in concomitanza con il radiogiornale, lo avete sentito, perdeva oltre 5 punti, l'euro è riscivolato al di sotto della soglia di 1,22 fino a 1,21,75, adesso è 1,21,90 e insomma cosa accade? Difficile individuare una causa scatenante la nuova pioggia di vendite che sta investendo i mercati azionari questa mattina. I fattori sono molteplici, di sicuro come sempre il tema dominante è la crisi greca, con il debito e la situazione preoccupante del debito di alcuni stati dell'eurozona, Italia compresa. Io a mio modestissimo parere ho ritenuto questa mattina che la pioggia di vendite che ha investito soprattutto Piazza Affari sia stata un pochino anche determinata dalle dichiarazioni che sono state diramate dall'Italia ieri dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, che naturalmente per spingere il passaggio della manovra finanziaria da 24 miliardi ha detto chiaramente: attenzione, o passa la manovra con sacrifici importanti per tutti e questo deve essere fatto per salvarci dal rischio Grecia. Forse un paragone, una dichiarazione fatta, non lo mettiamo in dubbio, in totale buona fede, ma abbiamo già visto la settimana scorsa, quando dichiarazioni di questo tipo venivano fatte dal cancelliere tedesco Angela Merkel, quanta paura aveva scatenato appunto sul mercato, anche se poi le dichiarazioni della Merkel si riferivano più che altro un po' alla tenuta della zona euro, erano considerazioni forse di più ampio respiro. Di fatto, per un paese che viene preso di mira molto frequentemente, come capita all'Italia, questa mattina anche questo pretesto è stato preso appunto per far fioccare le vendite un po' su tutti quanti i settori, su tutte le borse europee, e vedo dalle agenzie che le anticipazioni sulla situazione di Wall Street non sono migliori, perché il mercato americano oggi sembra si avvia ad aprire di nuovo in forte ribasso, il Dow Jones dovrebbe aprire con al di sotto della quota di 10.000 punti, male anche il Nasdaq, e insomma abbiamo di fronte a noi un'altra giornatina degna di attenzione e quindi degna di analisi e di commenti, che stamattina faremo intanto con Maximilian Cellino, il Sole 24 Ore, che saluto. Ciao Max. Buongiorno. E ben tornato. Peraltro ci siamo divertiti un pochino con lui fino a qualche minuto fa, perché la sua è di sicuro la miglior pronuncia in assoluto di questa banca del sud della Spagna. Sì, no, dobbiamo anche un po' alleggerire il clima, Maximilian, di questa banca spagnola, questa casta di risparmio spagnola che è praticamente in corso di salvataggio da parte della Banca Centrale Spagnola. La Spagna è un'altra zona tenuta assolutamente sotto osservazione dal Fondo Monetario Internazionale, anche per quello che ha detto il Fondo Monetario Internazionale. Ieri si sono scatenate le vendite oggi sul mercato dell'equity, sul mercato del vecchio continente, poi ci torneremo e poi ci faremo pronunciare anche il nome della banca spagnola, appunto oggetto della nostra disquisizione di questo momento. Però poi, per tornare ad essere seri e per analizzare quello che sta accadendo questa mattina, abbiamo interpellato anche Tommaso Federici, responsabile delle gestioni globali di Banca IFIGEST, che saluto. Federici, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere con noi. E siccome dobbiamo osservare un po' anche l'andamento dei titoli di Stato, che sono finiti sull'otto volante da qualche settimana a questa parte, stamattina dalle agenzie vedo che è tornata ad allargarsi di nuovo il differenziale di rendimento tra i decennali italiani e i paritetici tedeschi. Abbiamo chiamato anche Fabrizio Fiorini, responsabile delle gestioni obbligazionarie di Aletti Gestielle SGR. Fiorini, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie di essere con noi. Microfoni aperti anche alle vostre riflessioni. 800 24 00 24 è il numero verde, appunto, che vi dà l'opportunità di farvi una chiacchierata con noi. 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Intanto un ascoltatore dice: insomma, state tranquilli, sto facendo come Warren Buffett e sto comprando in borsa altri invece hanno riflessioni di altra natura. Adesso magari coglieremo l'occasione appunto per commentare quanto più possibile i vostri punti di vista. Maximilian, allora, già tu ieri avevi scritto qualche cosa a proposito in realtà del rapporto di cambio, era stato Walter Riolfi che aveva analizzato quanto accaduto ieri in borsa, una giornata che era assolutamente parsa molto tranquilla. Stamattina invece sembra di nuovo scatenarsi il putiferio. Secondo te che sta succedendo? Beh, intanto ieri tranquilla fino a un certo punto, perché è vero che le borse europee avevano chiuso sui livelli della vigilia, che c'erano stati pochi scambi, del resto era anche la Pentecoste e molti investitori erano lontani dai mercati. Ricordo quello che è accaduto a Milano, più che altro perché il 2,5% è stato determinato dallo stacco della cedola di 27 società. Quindi sembrava abbastanza tranquilla, però intanto a guardare un pochino più a fondo si capiva che già qualche vendita sui titoli bancari spagnoli, tedeschi e irlandesi c'era stata, a Piazza Affari no. Appunto quel meno 2,59% era più che altro un effetto cedole, e poi c'è stato anche un movimento abbastanza strano, difficile da interpretare, come sono anche abbastanza difficili da interpretare in questi ultimi tempi, nell'ultima mezz'ora per Wall Street. Nell'ultima mezz'ora Wall Street ha perso un punto e mezzo percentuale, quasi senza spiegazione. Così come venerdì, per esempio, nell'ultima mezz'ora aveva guadagnato un punto e mezzo percentuale, portando in positivo una seduta abbastanza altalenante. Questo di per sé può voler dire poco e può voler dire molto, nel senso che comunque la tensione è sempre estremamente elevata. Direi stormir di fronte, insomma, una qualsiasi notizia è in grado di creare molti problemi ai mercati. Soprattutto questo è un problema che magari poi in futuro, nei prossimi minuti, dibatteremo sui mercati e teoricamente più liquidi, come sono quello di borsa e quello delle valute. No, tra l'altro stavo riflettendo anche sulla questione di Wall Street, che ieri ha peggiorato un po' la sua situazione proprio sulle finali di seduta, e leggo qualche agenzia che ieri sera ha cercato di interpretare quello che stava accadendo. In sostanza si ritiene che sicuramente ci sono anche i timori collegati alla crisi europea e poi i possibili limiti che il governo americano potrebbe imporre alle banche americane con la riforma della finanza. E lì ritorno insomma sul tema di stamattina, sono tutte cose che in sostanza si conoscono e quindi non vedo nessun tipo di novità. Che la finanza americana venga riformata in qualche maniera è un dato di fatto, non si capisce bene perché siano preoccupate, proprio siano con i nervi così scoperti anche i titoli delle banche americane. Detto questo, torniamo in Europa, perché questo è quello che stamattina ci sta preoccupando. Vedo minimissimo segnale di miglioramento, meno 3 comunque per Francoforte adesso, Londra meno 3, meno 3,8 Parigi, Milano meno 4,64 e ancora Milano particolarmente colpita dalle vendite degli investitori. Tommaso Federici, mi sono fatta una chiacchierata con questo gestore di Banca Ifigest prima di andare in onda e lui mi diceva, gli ho chiesto insomma, ma proprio una causa scatenante rispetto a tutto questo c'è stata? Lui mi ha ribadito ancora che è un mix di fattori e sicuramente stanno preoccupando un po' tutti i programmi di austerità che i governi europei stanno mettendo in campo per far reggere anche l'euro. Federici, qual è la sua analisi di questa mattina rispetto a quello che si sta vedendo? Sì, diciamo sono movimenti che generati da un flusso di notizie negative che partono appunto dalla banca spagnola che citava prima e poi arrivano alle tensioni in Corea, alla spinta alle fusioni delle casse di risparmio in Spagna portata avanti dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca di Spagna oggi, e diciamo a fare da sottofondo le politiche appunto economiche restrittive dei paesi membri dell'Eurozona. Quindi in un mercato in cui gli operatori sono molto nervosi e cioè tentano di fare molta dietrologia, di vedere cosa c'è dietro in ogni comunicato che c'è, tutto questo flusso di notizie va comunque bilanciato e va calibrato per non ripetere gli errori che sono stati quelli della Merkel o comunque della Consob tedesca o magari quello di Gianni Letta di oggi di fare accostamenti inopportuni o comunque che possono aumentare il nervosismo, aumentare la tensione. Infatti, perché insomma si ha sempre l'impressione un po' che per risolvere le schermaglie politiche interne si vada così in libertà con queste dichiarazioni che poi provocano quello che provocano, che poi sarà sicuramente un aspetto marginale quello di queste dichiarazioni, io però dico che un pochino di effetto anche queste dichiarazioni lo hanno provocato questa mattina. Per un paese che, dicevo prima, già un bersaglio frequente delle vendite da parte degli investitori, questa forse non ci voleva. Federici, che dice? Aggiungo anche il caso del ministro spagnolo, il ministro delle finanze, Elena Salgado, che diciamo anche lei ha spinto i governi locali ad appoggiare le fusioni delle casse di risparmio e di scavalcare i problemi di politici, diciamo, di accordi politici. Quindi c'è come un'urgenza di riforme economiche, di riforme comunque di struttura per il settore bancario, per fare le politiche restrittive di austerity che dicevamo prima, e questo magari viene fatto diciamo sbandierando eccessi di un po' di paura, portando alla luce un po' di paura che forse non dovrebbe esserci, perché andando a vedere i fondamentali il rischio che si vada in un euro breakup, che si vada quindi allo sfaldamento dell'euro, come commentatori più negativi, economisti diciamo anche americani avevano fatto, è a una probabilità molto bassa. Lo stesso si veda per la probabilità di una doppia recessione. Cioè sono cose che sì, esistono nelle carte, ma che hanno ancora una probabilità di verificarsi molto bassa. Quello che magari possiamo fare noi, o che può fare noi come gestori o l'investitore, è quello di non aumentare il rischio in queste situazioni, ma neanche di cedere al panico e di smobilizzare le posizioni. Lo so, però diciamo che forse voi gestori avete i nervi un po' più saldi per poter mantenere le vostre posizioni. Certo è che quando si cominciano anche a scatenare le telefonate di piccoli clienti alle banche, perché si spaventano inevitabilmente rispetto a quello che accade, poi la questione appunto di tenuta dei nervi è un po' più complicata. L'euro intanto continua ad andare giù, 21,95 in questo momento. Prima di cominciare la mia chiacchierata con Fabrizio Fiorini, perché il tema dei titoli di Stato è pure particolarmente interessante, allora per farglielo approfondire bene direi che lo rimando alla seconda parte di Salvadanaio fra pochissimi minuti. Allora però faccio intervenire subito Vittorio da Milano, sento subito la sua considerazione, così contribuiamo ad arricchire il dibattito per la seconda parte del nostro programma. Vittorio, buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio. Sì. Niente, io facevo una riflessione, no? Sentendo la conversazione si ha l'impressione che si usino tutta una serie di categorie dello spirito, no? I mercati sono nervosi. C'è stato un movimento strano su Wall Street con la ripresa nel pomeriggio, il loro pomeriggio, per cui c'è un rialzo dell'1%, ma poi i vari incontri fa Paulson, Soros, sì, e questa gente qui, no? Allora io penso una cosa, che così avanti non si va, molto chiaramente, perché al di là del piccolo investitore o queste cose, queste robe qui poi incidono sulla carne viva di quelli che lavorano e quant'altro. E insomma, lei dice che questi movimenti fanno un po' sospettare il proseguimento di operazioni speculative che sono messe in piedi da gestori che possono movimentare portafogli importanti. Vittorio, giriamo questa riflessione ai nostri interlocutori per la seconda parte di Salvadanaio. Intanto la ringrazio. E allora, questa mattina a Salvadanaio siamo ritornati in borsa. Davvero non riusciamo a toglierci più di mezzo questo argomento, passatemi questo termine, nel senso che sì, prima eravamo abituati ad occuparci dei mercati finanziari almeno una volta a settimana, invece adesso da qualche settimana a questa parte abbiamo dovuto di nuovo intensificare pesantemente il dibattito e l'analisi intorno a questo argomento per far capire, speriamolo, ma non è facile, anche ai piccoli investitori che sono a nostro ascolto, cosa sta accadendo e da che cosa sono determinate questo ritorno, queste giornate di nuovo forte nervosismo. Stamattina cali pesantissimi in tutta Europa con qualche piccolo cenno di miglioramento. Una mezz'ora fa Milano perdeva il 5%, adesso fa meno 4%, quindi anche qua una volatilità discreta, perché recupera nel giro di mezz'ora un punto percentuale esatto anche l'indice italiano, meno 2,58 Francoforte, Parigi meno 3,24, Londra meno 2,90, euro di nuovo giù fortemente sul dollaro a 1,21,98 in questo momento, ma soprattutto c'è stato un vero tracollo dell'euro contro lo yen ai minimi dal novembre del 2001. E stiamo analizzando un po' tutto questo, le motivazioni che hanno prodotto questa situazione. Adesso ci mancava un pochino da analizzare la situazione di stamattina sul mercato dei titoli di Stato. Fabrizio Fiorini, Aletti, GSTL, SGR, il rendimento del Bund decennale tedesco stamattina è sceso al 2,60%, toccando i minimi dal 1989. Questo ha provocato anche un allargamento del differenziale con i decennali italiani. Qual è il panorama della situazione? Questo nervosismo della borsa si è riversato anche sul mercato obbligazionario, sul mercato dei bond governativi? Sì, io rovescerei il rapporto causa-effetto. Probabilmente quello che sta succedendo sui governativi è all'origine di ciò che possiamo vedere sulla borsa. E allargherei un attimo il ventaglio dell'analisi, perché mi sembra che si stiano cercando spesso degli alibi che oggi però non funzionano più. Sento ancora parlare di Grecia, questa mattina ancora qualcuno parlava di Grecia. Il problema greco è un problema che non esiste al momento, non esiste più. I mercati oggi soffrono di un altro problema, che il problema greco eventualmente ha messo a nudo e che le ultime vicissitudini di mercato hanno confermato. Il problema greco ha messo a nudo il fatto che l'Europa non è coesa nel risolvere i problemi. Poi a un certo punto hanno dovuto intervenire e hanno dovuto mettere sul tavolo molto di più di quello che avrebbero dovuto spendere se fossero intervenuti subito. Cioè, in sostanza, il tema grosso è il banco di prova che la Grecia ha rappresentato per i governi dell'Eurozona. Che è stato inizialmente superato, ma l'Europa è riuscita a fare peggio, soprattutto nella loro componente governi, quando ad esempio, secondo me la cosa più eclatante è che la Merkel decide di fare una legge senza con... tipo di anche ricerca di consenso esterno, il blocco delle vendite allo scoperto di settimana scorsa. Esatto, dice. Secondo me è ciò che ha scatenato l'inferno, non tanto per la legge in sé, che voglio dire ha una valenza limitata alle banche tedesche, sul territorio tedesco, neanche sulle filiali. Sì, è vero. Quindi, però è un segnale che chiunque in Europa può pensare di andare per la propria strada, e allora è chiaro che in un momento in cui l'Europa è in difficoltà, ha dimostrato difficoltà sul problema greco, finalmente coesione nella soluzione del problema greco, immediatamente facciamo un passo indietro dimostrando di affrontare le cose ognuno per sé. E allora ecco che entra in discussione l'euro, ecco che l'euro scende, ecco che la discesa dell'euro mette dubbi su come saranno affrontati i prossimi problemi, ecco che si apre allora una finestra su, ma caspita, in Europa i debiti sono elevatissimi e questi non riusciranno a ripagarli. Il paradosso qual è? Che oggi siamo preoccupati del fatto che il debito in Europa è alto e che i governi stanno finalmente decidendo di mettere mano ai deficit, e da un lato si criticano i governi europei perché se mettono mano ai deficit rallenteranno la crescita, e dall'altro si criticano i governi europei suggerendo loro di non mettere mano ai deficit per mantenere la crescita elevata. Da qualche parte devono decidere di andare i governi europei. È chiaro che non hanno la credibilità in questo momento che hanno perso sulla questione greca prima e sulla questione tedesca delle vendite allo scoperto dopo. E quindi tutto costa di più in Stupisce Europa. Un po' però il fatto, Fiorini, non so se lei la pensa come me, è che in ogni caso questa lezione che in qualche maniera è stata impartita al mercato da questo atteggiamento della Merkel delle ultime settimane con l'ultimo episodio del blocco delle vendite allo scoperto, comunque non suggerisce nessuna buona prassi anche agli altri esponenti degli altri governi europei. Ho citato Letta prima, poi citava l'altro nostro ospite Tommaso Federici il caso del ministro spagnolo. In ogni caso si persevera su questa strada, vedo. Diciamo che in realtà sono cose un po' diverse. Per caso Letta stiamo parlando di un problema diverso, cioè si sta dicendo i conti pubblici vanno rimessi in ordine. Alla fine la Grecia è stata colpita perché non voleva mettere i conti in ordine, no? Quindi questo è il male. Mettere i conti in ordine non può essere a sua volta il male. Quindi il problema Letta non può essere, o meglio, il problema dei conti pubblici italiani non può essere letto alla stessa stregua del problema Grecia, perché sono due cose opposte. Noi vogliamo mettere a posto i conti come noi lo vuole fare la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda, la stessa Germania sta facendo qualcosa, quindi non possiamo usare due pesi e due misure. Se i conti pubblici devono essere messi a posto, quando non lo si fa si condanna un paese, ma quando lo si fa lo bisognerebbe premiarlo, e invece questo non capita, ed è il primo errore. E mentre in Spagna un secondo errore è valutare negativamente questo, ma se non avessero salvato quella banchetta, non fossero intervenuti, il problema che si sarebbero trovati sarebbe stato più grave. Quindi, molto più forte. Perciò siamo attenti a non valutare tutto negativo che stia... Però poi il mercato lo fa, e di fatto piccoli investitori sono oggetto appunto di questo uragano che sui mercati si determina e che poi poi tra l'altro fa il gioco anche tutti quegli speculatori che Vittorio da Milano, il nostro ascoltatore prima appunto, citava. Ci ritorniamo su questi aspetti. Vorrei però sentire anche la domanda di Paolo da Roma, che in qualche maniera anche ci riporta la trasmissione che abbiamo organizzato ieri, perché hai voglia noi a fare le trasmissioni su guida degli investimenti sicuri in uno scenario come questo. In realtà qualche porto sicuro per i nostri risparmi c'è. Paolo, sentiamo un po' se possiamo accontentarla questa mattina con uno scenario un po' complesso come quello che si sta determinando sul mercato proprio in questa giornata. Paolo, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Volevo chiedere, io ho una certa liquidità, sono un piccolo risparmiatore in banca sul conto corrente. Non so se è il caso, in momento di investire in modo prudente, oppure una piccola percentuale in azioni. Ecco, sul conto corrente, quindi non... Certo, magari insomma per una persona prudente come lei questa occasione può essere anche intercettata come opportunità di investimento. E allora magari è una domanda che si stanno facendo in molti, perché in realtà la liquidità, Maximilian Cellino, ce n'è tanta in circolazione, molta accantonata magari su fondi monetari che sono assolutamente non produttivi in questo momento di grandi risultati, conti di deposito. Proprio ieri abbiamo dedicato una puntata a questo argomento, insomma. Però Paolo, con un po' di coraggio ce l'ha, potrebbe anche essere il momento, a patto che naturalmente questa nuova emorragia si fermi, chissà. Ma io sento parlare di prudenza e di borse, mi sembra che siano due concetti che già in genere non vanno molto bene d'accordo. Poi in questo momento particolare tensione lo vedo ancora... Vedo ancora più difficile. Tutto dipende, il nostro ascoltatore non ci dice molte altre cose, per esempio quanta parte vorrebbe investire nel caso in borsa, se ha bisogno, se pensa di aver bisogno di quel denaro da qui a uno, a un mese, cinque, a un anno, anni, a sei anni, non so. Se uno decide di andare adesso in borsa, lo deve fare essendo ben consapevole, prima di tutto, che deve investire una piccola parte del suo denaro, del suo patrimonio, perché insomma, è un investimento abbastanza rischioso. Deve misurarlo anche con la proprietà, con le proprie capacità di risparmio e di reddito, ovviamente, ma soprattutto deve essere cosciente che in questo momento in borsa si può dover sopportare nel breve termine una forte volatilità a ribasso, anche un'occasione di rialzo. Di certo adesso non si sta comprando ai massimi, visto che ai massimi eravamo qualche mese fa. Questo non è detto ovviamente che non si debbano sopportare altri ribassi, anzi il momento ne stiamo parlando oggi da settimane, il momento è abbastanza complicato, di tensione. Chi vuole andare in borsa adesso lo faccia, però a suoi rischi e pericolo, non è che si può immaginare, questo mai, ma maggior ragione in questo momento, che investendo adesso in borsa sia un posto dove sì, si può fare dei soldi e il mio denaro quindi garantisca. Attenti, è un momento molto delicato. Tommaso Federici, lei lo farebbe un giardinetto di investimento sul mercato azionario a Paolo da Roma, un investitore che ha detto è prudente, però sta osservando attentamente anche quello che accade, vede questo mercato che si sta riavvicinando a dei livelli interessanti, e allora dice insomma potrebbe essere il caso per un profilo come il mio a avvicinarsi adesso al mercato azionario? Sì, io non lo sottovaluterei, perché diciamo può essere anche una difesa, visto che appunto il mercato più liquido è quello dove gli speculatori e anche chi fa una gestione più attenta dei rischi, come possiamo essere noi, vanno a ridurre appunto il rischio. Io credo di sì, a discapito dell'investimento sull'obbligazione societaria, magari. Però a questi livelli, selezionando magari gli esportatori europei, che possono essere della manifattura, quindi industriali, oppure del lusso italiani, che possono beneficiare appunto di un dollaro a 1,2190 come adesso, io nel senso sì, secondo me è un buon momento. Poi chiaramente se è con un orizzonte, come diceva giustamente l'ospite di prima, se l'orizzonte è molto breve, giocarsi a rimbalzo sull'azionario non è consigliabile. Con un obiettivo di medio e lungo termine, e se l'investimento è adeguato e appropriato al proprio profilo di rischio e alle proprie dimensioni di patrimonio, assolutamente sì. Allora, 800240024 è il numero verde che vi permette ancora di chiacchierare un po' con noi. Meno 4% adesso il FTSE MIB a Piazza Affari. Peraltro, non ho detto i titoli che stanno perdendo di più. È un panorama un po' differenziato quello che vedo, perché il peggior titolo è Saipem, meno 6,54%, il petrolio sui $70. Ovviamente questi titoli risentono anche dell'andamento delle quotazioni del greggio. STM, meno 6, e qua chissà che cosa influisce su questo titolo. Unicredit, i titoli bancari. Unicredit è tornata a 1,61€, meno 6,42%. Fiat, meno 6 a 8 euro. Intesa, meno 5,76 a 1,97€. Pirelli, meno 5,56. Meno 5,5 punti per Azimut, Tenaris, meno 5 per Exor e Fondiaria. Nessun titolo positivo. I titoli che perdono meno, perdono fino a poco fa più di un punto. Adesso un po' di miglioramento c'è. Atlantia, meno 0,6. Terna, meno 0,75. Insomma, proprio una giornata bruttina. A tra poco. Intanto sto dando un'occhiata alle pittoresche considerazioni degli ascoltatori di questa mattina. Un ascoltatore dice: perché ho utilizzato il termine, ma come parla, un giardinetto di investimento? Un giardinetto, insomma, abbiamo utilizzato tante volte anche in finanza, qualche volta adottiamo un gergo un po' per colorire le nostre trasmissioni, non ci vedo niente di scandaloso. Un altro mi dice che stiamo usando aggettivi esagerati per descrivere la situazione di questa mattina, a me sembrava di aver adottato anche un atteggiamento piuttosto rassicurante, però insomma questo è quello che accade e forse è bene raccontarvelo piuttosto che far finta di niente, perché poi c'è chi si lamenta anche per il contrario. E ancora tanti ascoltatori, ce n'era uno che ci ha fatto veramente troppo divertire, a me, Maximilian: tranquilli, io faccio come Warren Beatty, mi accendo una sigaretta, non come Warren Buffett. Volevo tornare però, riprendendo, come dire, il discorso dal punto di vista più serio, perché bisogna essere un po' più seri sulla situazione di stamattina, sui titoli di Stato. Fabrizio Fiorini, perché lei prima ci ha riproposto un'analisi rispetto alla situazione dell'ultimo periodo, da quella e tutte le motivazioni un po' oggettive che l'hanno scatenata, soprattutto la mancanza di coesione politica nell'Eurozona, che determina poi anche la situazione che vediamo questa mattina. Però le richiedo un po' anche sui titoli di Stato questa mattina che movimenti si sono visti, per capire se chi è in assoluto l'affezionato all'obbligazione governativa deve, come dire, a questo punto poi abbandonare anche questo campo di investimento, può avere una certa serenità. Le dinamiche sono molto particolari. Le obbligazioni governative tedesche vedono i loro prezzi salire, le obbligazioni governative italiane vedono i loro prezzi scendere, quindi e non solo italiane, ma diciamo di tutti i paesi cosiddetti periferici, Spagna in particolare, Portogallo. In questo momento il mercato obbligazionario nel suo complesso, denominato in euro, è pervaso da questa paura che i debiti e non siano sostenibili e che quindi questi paesi abbiano difficoltà a rifinanziare il loro debito, e questo si manifesta in una vendita di obbligazioni governative, nella fattispecie BTP, CTZ, CCT, così le persone capiscono meglio di cosa stiamo parlando, e in acquisto di titoli governativi tedeschi, con una biforcazione dell'andamento dei prezzi, diciamo, in direzioni opposte. Bisogna avere paura di questo. Io ribadisco che l'analisi va fatta considerando il futuro. Può effettivamente l'euro diciamo svanire, può essere buttata all'aria un'esperienza di 25 anni che ormai ha pervaso il mondo? Io penso di no. In questo momento può esserci un problema legato al rifinanziamento di determinati debiti, ma quello che i governi stanno facendo, cioè il controllo dei deficit e quindi la sostenibilità del debito nel medio e lungo termine, è la garanzia che prestare soldi ai governi in questo momento non si incorre nel rischio di fallimento. Il rischio di fallimento può essere legato alla mancanza di liquidità, e qui dovrà intervenire, purtroppo anche non volendo, la Banca Centrale Europea a fornire quella liquidità che in questo momento non c'è, perché va altrove, non va nei titoli governativi, e quindi questa liquidità deve essere canalizzata verso i titoli governativi, dando liquidità a un mercato che in questo momento l'ha persa, e se non viene la liquidità si rischia di generare quel risultato che oggi si vuole invece evitare, cioè proprio il default. Il tema della liquidità, peraltro interessante, che era quello che spiegava prima anche Maximilian Cellino, e questo è il motivo per cui anche le borse scendono fortemente questa mattina, Maximilian, perché questo invece è un mercato che si compra e si riacquista abbastanza rapidamente, come dire, per essere proprio molto brutali anche nella spiegazione. Beh sì, ci sono dei mercati in cui è più difficile acquistare e vendere. In questi ultimi tempi lo è anche il mercato dei titoli di Stato, che è sempre stato molto liquido, non che adesso sia illiquido come alcuni mercati all'epoca del fallimento di Lehman, però comunque qualche frizione si avverte anche sul mercato dei titoli di Stato. Peraltro la BCE è intervenuta perché ha acquistato titoli di Stato dei paesi periferici per 26 miliardi di euro, infatti, mi sembra, quindi, e penso che interverrà ancora. Qualche problema si comincia a avvertire anche sui mercati monetari, quelli dell'Euribor, dell'Libor, che molti conoscono per altri motivi, magari perché hanno un mutuo. Ed è ovvio che in un momento in cui la liquidità, cioè la difficoltà anche che le banche hanno a reperire fondi, a prestarsi il denaro l'una con l'altra perché non si fidano una dell'altra, è un problema che sta montando, un problema importante, e un certo contraccolpo è questo, che chi deve vendere vende sui mercati dove lo può fare. Ripeto ancora una volta, si protegge in borsa vendendo dei titoli, principalmente titoli di bancari, ma come vediamo oggi non soltanto quelli, e vende anche cercando protezione sui mercati valutari, cioè andando ad acquistare lo yen, che è la valuta che in questi momenti è la valuta che era il rifugio, esatto, e lo yen è ovviamente anche il dollaro. Allora, sentirei, ci mancano 2 minuti prima di chiudere, 2 ultime considerazioni finali degli ascoltatori per poi lasciar concludere anche i nostri ospiti. Gianni da Vicenza, le chiedo di essere veloce, peraltro la sua riflessione è simile anche a quella di molti altri che ci stanno scrivendo. Rapidissimo, grazie, buongiorno. Sì. Buongiorno, volevo fare una considerazione. Un suo ospite all'inizio ha detto che ha rassicurato i piccoli investitori dicendo: in questi momenti io non venderei, ma neanche acquisterei, starei fermo. Ma questo allora vuol dire che i mercati peggioreranno, presumo. E poi un'altra considerazione veloce. Io capisco il settore bancario che perda molto, visto le manovre che intendono fare i governi, ma il manifatturiero come mai perde, visto che i trimestrali non sono così pessime? Io ad esempio sono esposto in titoli della raffinazione del petrolio, soprattutto quella società, e perde da una vita. Come mai? Visto che il dollaro è alto e il petrolio è relativamente basso. Gianni, sentiamo allora Federici, che è stato chiamato in causa. La sua riflessione iniziale nascondeva un presagio così terribile come quello che indicava Gianni. Federici, lei dice, insomma, stando fermi nelle posizioni significa che dobbiamo aspettarci qualcosa di peggioramento? No, però le cose non sono mai né bianche, né tutto bianco, né tutto nero, quindi bisogna costruire un portafoglio che sia equilibrato un po' con tutte le condizioni del tempo, quindi evitare quello che sono i concentramenti magari sui paesi, perché magari non, dal punto di vista fondamentale sicuramente l'Italia può non avere i problemi della Grecia, però se la speculazione fa l'equazione debito pubblico alto, vendo, allora verremo colpiti anche noi, quindi è stupido non diversificare anche quella componente lì, quindi la componente di rischio paese. Gianni chiedeva anche, ecco, insomma, va bene, capisco che il mercato colpisca con le vendite il settore finanziario, ma perché anche la manifattura? Perché la manifattura è legata al finanziario per il credito, una relazione così banale, Federici? Anche per i consumi, il fatto che ci sia comunque una restrizione di tutti i consumi, si viaggia meno trasporti, meno merci trasportate, insomma ci sono tanti fattori, e poi il principale è che quando si va in queste fasi di mercato molto volatile con treni molto, molto alto, si va a vendere senza fare selezione, quindi c'è l'opportunità di fare selezione, e forse quella che identificava l'ascoltatore è una buona opportunità, cioè, nel senso, il mercato scende tutto senza fare grosse distinzioni. Quello che segnalavo io magari è una delle cose che può essere sfruttata. Gli esportatori europei, se scendono in queste giornate, può essere un'occasione d'acquisto, perché il dollaro appunto si è rafforzato moltissimo, l'euro è debole, quindi e questo insomma ci dà una direzione magari per il breve periodo quantomeno. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia questa mattina, speriamo di non aver generato troppa preoccupazione fra gli ascoltatori. Ritorniamo sui mercati fra qualche minuto con il GR. Intanto grazie a Maximilian Cellino, Tommaso Federici, Fabrizio Fiorini per essere stati con noi. Salva Danaio torna domani, speriamo di non dover tornare di nuovo sul mercato, ma chissà. Intanto buona giornata a tutti.